Le piaceva andare di notte ogni estate in riva al mare, camminare e poi fermarmi ogni tanto lì e pensare a cose inutili. A come grande il mare, a che distanza c'è tra qua e là. Oppure, com'è che così strano il mondo e com'era strano esserci. Confondermi e perdermi sotto quel cielo e a tutte le stelle. Perdermi, riperdermi, lontano da ogni cosa su una stella luminosa. Non esserci, non essere, non esser mai. Spostamento che avrai, perché voglio vederti stare